Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno amici sportivi. Flavio Suardi, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao coach, buongiorno a tutti. Oggi la voce più dolce Flavio. Del nostro basket finalmente è tornata Paola Ellisse. Ciao Paola. Ciao, buongiorno a tutti, ciao coach. Ciao Paolina, la baronessa. Esatto, la baronessa del nostro basket. Nella notte, allora, oggi... Andiamo a ritroso. Notizia di oggi, del giorno, è che Bargnani torna in azzurro. Lo ha comunicato a Roma nella sala del CONI, dicendo: la mia è stata una scelta spontanea in un momento in cui il basket italiano sta affrontando un periodo di crisi molto brutto. È giusto che in questo nuovo ciclo riporti l'azzurro nei posti che merita. Veniamo da un momento difficile e la responsabilità la sento, ma c'è anche la voglia di tornare a divertirsi rivestendo un ruolo importante nel panorama internazionale. Dunque Bargnani torna, Bellinelli suppongo tornerà, Gallinari ho qualche dubbio in più, ma lo scopriremo vivendo. Poi andiamo indietro nella notte con 26 punti dell'infrangibile Ginobili. San Antonio ha battuto Dallas 97-87 e giocherà in semifinale di conference con Phoenix, che ha vinto 99-90 a Portland con 28 di Jason Richardson. Coach, adesso San Antonio diventa l'incubo, credo, dei Lakers. È 1-2 per me per i pronostici, perché avevo pronosticato San Antonio perché grande fiducia in Greg Popovich, grande allenatore. Parker tornava, Ginobili, come hai detto tu, in grande forma. Aveva anche pronosticato Portland appena prima dell'infortunio a Brandon Roy, però Phoenix meritava, vincendo la partita a Portland, anzi due delle partite giocate a Portland, ha dimostrato la forza. Assolutamente hai ragione tu, che San Antonio, squadra veterana con queste vittorie sotto la cintura, come dicono in America, alle spalle, loro sono un incubo, perché i Lakers non si sono qualificati ancora, devono giocare a Oklahoma City, devono, e se perdono lì, gara 7, Oklahoma City è il primo incubo per i Lakers. Un po' stanchi, con Kobe Bryant non esattamente al 100%, assolutamente una difficilissima. Paolo, ma ti ricordi quando raccontavi Ginobili con la maglia di Reggio Calabria? Sì, sembrano passate ere geologiche da allora, veramente. Sembra davvero che stiamo parlando del mesozoico. Io comunque sono un po' preoccupato per lui dal punto di vista dell'incolumità fisica, perché ha firmato altri 3 anni di contratto, non vorrei che finisse davvero con le stampelle la sua carriera. Lui è un po' come Allen Iverson, come Dwayne Wade, quelli che possono cadere 1000 volte ma si rialzano sempre, devono avere, sono di gomma, per cui l'unica cosa che lascia lì ogni tanto è il naso, però pazienza. Tra l'altro, Carlo, per tornare invece a cose un pochettino più recenti, non so se Paola ti ricordi di quando raccontavi che Brandon Jennings non giocava a Roma. Sì, non giocava quello. Mai, e invece Brandon Jennings sta facendo pentole coperchie a Milwaukee. Ma guarda, addirittura c'è la puntata del Diario del Gallo che sta andando in onda in questi giorni su Sky Sport, in cui lui, il Gallo, dice addirittura che secondo lui Brandon Jennings meritava il titolo di rookie dell'anno. Effettivamente sta facendo cose pazzesche. Questo conferma che NBA e campionato italiano, o Europa in generale, comunque continuano ad essere pianeti differenti. Coach, Milwaukee di Brandon Jennings è la vera grande sorpresa di questi playoff. Assolutamente, perché senza Andrew Bogut e poi tutto l'anno quasi senza Michael Redd, però la super sorpresa è, hai detto, Paolo Lis, ha detto Brandon Jennings. Paolo, hai lanciato Ginobili e Brandon Jennings, tu, quei due mancini, è veramente forte. Hai capito quante ne so, coach? Ecco, guarda, grande la baronessa che lancia i giocatori, ma veramente Jennings, perché vedendolo giocare poco a Roma e anche facendo onestamente detto qualche fatica, però alla luce dei fatti bisogna dire che Roma ha fatto uno sbaglio, che doveva lui giocare di sì, forse doveva. Ah no, lui dire dove vuoi portare, perché adesso cosa vuol dire? Certamente ha approfittato il fatto di aver giocato a Roma, però maturato un po' giocando in allenamento in partite contro gente più vecchia, ma fino a un certo punto, cioè, qualche errore di giudizio, di valutazione è stato fatto prima dalla gestione di Repesce e dopo dalla gestione di Gentile, bisogna dire questo, si fa male. Qualche problema di linea con il coach. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. ci sentiamo, Paolo, un abbraccio. Anche a te, coach, un bacio. Ciao, qualche, ciao ragazzi. Oggi purtroppo qualche problema di linea con il coach, forse in una grotta, non so, prendeva benissimo il telefono. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, i vostri messaggi 349 238 6666. Oh, Paola, Bargnani sia la nazionale, come lo vedi? Beh, sicuramente una buona notizia. Te l'aspettavi? Ma no, scontato mai, no. Scontato mai, è senz'altro una buona notizia. Spero che si aggreghino anche gli altri due, Belinelli e Gallinari, anche spero che alla fine ci sia anche lui. Credo che sia una buona notizia se gestita nel modo giusto, nel senso che loro tre possono essere un valore aggiunto, naturalmente molto importante per la nostra nazionale. Credo debba essere gestito il tutto nel modo giusto, nel senso che devono essere rispettati in quanto stelle, ma sempre nel rispetto anche di tutti gli altri, comunque, perché certo, sono in 12 a comporre la nazionale e hanno ognuno il loro diritto ad esserci quando verranno convocati da Pianigiani. Quindi insomma va bene essere le stelle all'interno di un contesto di rispetto. Però vedi, adesso tutti si gioca anche sull'immagine, no, di questa nazionale agli occhi del grande pubblico. Molti ascoltatori sono intervenuti dicendo però Nowitzki va con la Germania, però Gasol va con la Spagna. Anche dal punto di vista dell'immagine, il fatto che Bargnani abbia detto sì, ci sono, ok, adesso giochiamo su quel fronte, no? Poi cominceremo in estate a giocare le partite. È un'operazione di ricostruzione totale, anche dell'immagine. Beh, necessaria peraltro, visto che come sono andate le cose ultimamente, anche perché è una ricostruzione che è partita qualche mese fa con l'arrivo di Pianigiani. Per cui già lì dava l'idea la federazione di voler stabilire già un piano di partenza. Chi è il migliore allenatore attualmente in Italia? Pianigiani. Perfetto, partiamo da lui. E quindi chiaramente tutto questo fa parte di un progetto di ricostruzione. Poi tu giustamente parli di immagine. È chiaro che l'immagine di Bargnani in questo caso è qualcosa che aggiunge, perché il senso dell'appartenenza alla maglia della nazionale va sentito, e devo dire che forse noi l'abbiamo perso un po'. Tra l'altro, Paola, tu giustamente dicevi che prima che mondo NBA e mondo europeo e anche italiano sono due cose diverse. Anche da questo punto di vista, quindi dell'impiego dei giocatori che giocano nell'NBA, probabilmente un minimo di riflessione va fatta, cioè non dico un trattamento di favore, però qualcosa di diverso rispetto a quelli che giocano in Italia. I tre ragazzi che giocano 82 partite devono averlo nel trattamento, altrimenti non verranno mai più. Certo, no, ma su questo sono d'accordissimo, assolutamente d'accordo. Il discorso del rispetto degli altri secondo me è più ampio, cioè bisognerebbe ampliarlo, poi non si può fare in una trasmissione radiofonica, andare oltre, andare all'impiego obbligatorio dei sei italiani a roster, del tutto quello che riguarda i giocatori italiani all'interno della nostra pallacanestro, perché naturalmente ci sono giocatori che magari si sentono più importanti di quanto non siano realmente, proprio perché sono tutelati dal WWF in qualche modo, no? Specie protetta, naturalmente. Esatto, no? Esatto. Per cui magari bisognerebbe fare un discorso molto più ampio in questo senso. Poi sul fatto che questi tre arrivino da una stagione faticosa, stressante, lunghissima, è tutto chiaro che su questo niente da eccepire. Il resto del partito di Boniciolli, sono per la libera concorrenza sul mercato. Totale, liberi totale. Tutti. Concordo. Professionismo è professionismo, signori. Non è che bisogna giocare con le carte, nemmeno quelli di identità. No, anche perché non lo dice giustamente Matteo Boniciolli, noi vendiamo, lo ha detto anche Trinchieri recentemente, noi vendiamo uno spettacolo e lo spettacolo deve essere godibile al di là di chi lo interpreta, giusto? Naturale. Per cui se tu vai all'opera e il soprano è russa o italiana o svedese, l'importante è che canti bene. Sono affari anche questi, baby, no? Sì. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Roberto da Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, la ringrazio per l'opportunità. Grazie a lei, dica. Niente, io approfittavo, non so se è ancora collegato Dan Peterson. No, non c'è più, sembrava sprofondare, non riuscivamo a sentire bene la linea, purtroppo oggi il coach è impegnato a Venezia. Dica. Ho capito, niente, io volevo solo fare i complimenti a voi per la trasmissione e a Dan Peterson. Io sono grande tifoso, diciamo adesso seguo meno il basket, però male, molto male. Perché diciamo ho seguito il periodo che era il periodo della Tracer, della Simac, della Milano, e niente, volevo ringraziare ancora il coach, perché per me quel quintetto con con Meneghin, Mekadu, Brown, Vincent, Pistis. Sì. Magari era anche un basket diverso rispetto adesso, però insomma... Era un basket diverso, però era una Milano che vinceva. Guardi, adesso c'è perfino l'Inter che gioca la finale di Champions League 38 anni dopo, quindi adesso anche l'Inter può chiudere il libro dei ricordi e aprire quello della cronaca e aprire un nuovo album fotografico. Adesso manca proprio Milano, no? Paolina, siamo ai ricordi, cioè siamo alla nostalgia canaglia. Siamo alla più nostalgia pura, canaglia per i milanesi, sì, decisamente, ormai gli anni sono passati. E... qualcuno anche. Insomma. Qualcuno. No, e forse questo è uno dei problemi non solo di Milano, ma in generale forse anche dell'immagine della nostra pallacanestro, perché nell'immaginario collettivo il grande personaggio è ancora Meneghin. No, ma di ti Milano. Devo dire, Carlo, che è una di cosa Milano. Che trovo dappertutto nei palasport, però, cioè vai a Pesaro e senti parlare di Cucchedei. Vai a Caserta e senti parlare di Oscar. Cioè, ovunque tu vada, Larry Wright a Roma, adesso non stiamo a fare tutte le piazze italiane, però c'è questa tendenza alla nostalgia canaglia, come dici tu, questa tendenza a guardare indietro. Non so se sia perché la pallacanestro che vediamo oggi piace di meno o se sia perché questo dominio di Siena tutto sommato ha tolto magari a chi non tifa per Siena la spinta, perché sai che tanto lo scudetto lo porti a casa, non lo so, però c'è tanta tendenza a guardarsi indietro. Sarà che quelli erano grandi giocatori, erano personaggi veri, oggi magari fa un po' più fatica a trovarli o a conoscerli, forse il conoscere, l'identificazione, perché adesso stanno un anno qui, o anzi due mesi qui, tre mesi là, giocano per la tua squadra la settimana dopo li vedi contro, cose di questo tipo, magari c'è meno identificazione. Come ti dicevo prima su un altro discorso, è amore a pagamento molto spesso, non sono più tanto storie vere. Sì, forse sì, un po'. Tommaso da Livorno che avrà nostalgia di Jelani, del povero Kevin Restain, una delle notizie della settimana che è scomparso in settimana, grandissimo giocatore e grandissimo personaggio, Kevin Restain, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di ospitare per molti anni qui in Italia. Tommaso, buongiorno. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Sapevo io. Bisogna anche saperlo che il tema della trasmissione sarebbe stata, diciamo, la nostalgia. Voleva appunto intervenire in trasmissione. Non è un tema, siete voi il tema, non... Schema libero, happening totale, dica. Esatto, io sono un vecchio tifoso appunto della Libertas Livorno e ho una nostalgia incredibile degli anni 80 e degli anni 90 per quello che era la pallacanestro a Livorno e per quello anche che la pallacanestro di Livorno, comprendendo anche la pallacanestro Livorno come società, rappresentava per il basket italiano. Ecco, la mia domanda è questa: ambienti come quello che si respirava a Livorno, al vecchio Palayende, ma soprattutto il basket degli anni 80 e degli anni 90, secondo voi quanto manca al basket di oggi? Cosa manca al basket di oggi per essere qualcosa di grande come lo era forse in quegli anni? Non lo so cosa manca, Paola. Gran bella domanda questa. Saperlo, cercheremo di correre. Io credo che la cosa principale che manca alla nostra pallacanestro in generale siano dei personaggi. Perché abbiamo sentito nominare tanti nomi, erano personaggi a prescindere, cioè se parliamo di Meneghin parliamo di un'icona, non soltanto per chi ha tifato Varese o per chi ha tifato Milano, anche chi lo odiava comunque c'era. I nostri ultimi personaggi sono stati Carlton Myers e Gianmarco Pozzecco. Adesso abbiamo una pallacanestro fatta di tanti bravi ragazzi, bravi figlioli, carini, che dicono la cosa giusta, bei sorrisi, eccetera eccetera, ma non abbiamo il personaggio. Forse invece dovremmo costruirne qualcuno, crearne qualcuno, avere il modo di far conoscere qualcuno. Sì, tornando al discorso della nazionale, Bargnani non Bargnani, Gallinari non Gallinari, io ho sempre la sensazione che a questo gruppo manchi un leader emotivo, che non può essere Bargnani per caratteristiche, che forse sarà Gallinari, ma non ha mai giocato in nazionale, quindi chi lo sa, non abbiamo la prova provata, però anche nella squadra che sta nascendo un leader emotivo non c'è. Ma credo che, come dici tu, Gallinari possa avere il carisma, quantomeno in campo, per essere un trascinatore, perché il suo modo di giocare è carismatico, lo ha dimostrato ancora quando era qui a Milano. Però anche lui è un bravo ragazzo, diciamo che la cattiveria è lontana da Danilo, e ci vuole anche quella invece in realtà, forse, per essere dei veri leader bisogna essere anche un po' cattivi, magari cacciare anche due urli in faccia a un compagno di squadra, insomma. E non so quanto Danilo, magari lo farà, magari sarà perfettamente in grado di farlo, adesso stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni comunque. se c'è uno che lo può fare, quello è lui, e soprattutto che può farlo avendo credibilità nei confronti degli altri, perché è chiaro che se vado io a strillare in faccia a qualcuno mi guarda e dico cosa vuoi. Devi avere anche credibilità. Lui forse, anzi sicuramente lui ce l'ha. Una delle mille storie che ci ha raccontato il coach, no? Di quando allenamento, poco bassa intensità, Dino Meneghin, che era Dino Meneghin, prende una transenne e la fa volare dentro al campo. Non ce lo vedo ancora Danilo Gallinari che fa una cosa del genere. Peraltro Paola, Pianigiani si troverà di fronte a una squadra molto giovane. Cioè questo famoso ricambio generazionale si troverà a gestirlo non soltanto con questi tre della NBA, ma anche con altri ragazzi che giocano nel nostro campionato. Quindi compito facile direi di no. No, compito difficilissimo per Pianigiani, anche perché innanzitutto è la prima volta che esce da Piazza del Campo, quindi si troverà in una realtà completamente diversa rispetto a quella del Monte Paschi. Monte Paschi è comunque una società organizzata in una maniera veramente pazzesca, per cui il lavoro di Simone Pianigiani si svolge su determinati binari che lui dovrà ricreare all'interno della federazione, quindi c'è già questo tipo di lavoro da fare per lui. E poi dovrà creare una squadra. Non credo che vorrà fare un elenco di nomi, vorrà creare una squadra. Lui gestisce in campionato una squadra in cui ci sono i Carretto e Res che stanno seduti 38 minuti zitti e contenti, e probabilmente vorrà ricreare questo tipo di situazione anche in nazionale. Bisogna vedere chi saranno i Carretto e Res della sua nazionale, cioè due ragazzi che siano disposti a portare le borse e a starsene zitti, ecco, certo. Mettiamola così. Io stavo dando un'occhiata anche ai messaggi, un pensiero d'affetto a Sciacquota, ma naturalmente poi ne parliamo dopo la pausa che ci attende tra tre minuti. Parleremo dell'avventura europea della Scavo Spar, che si gioca l'Euro Challenge. E col chiaro di luna non è che possiamo fare tanto gli schizzinosi, cioè, è una coppa europea, ragazzi. Questa coppetta non sarebbe male riportarla a casa, perché la detiene la Virtus Bologna. C'è chi scrive: la nazionale farà benissimo a Bargnani, molto più che il lavoro individuale negli Stati Uniti. Andrea ha bisogno di giocare all'europea, sportellate. Michele da Modena. Oppure Bargnani c'era anche altre volte, ma se non ci sarà un pivot continuerà a fare poco. Maurizio da Bologna. Oppure il Gallo deve andare in nazionale, ha finito il campionato ad aprile, non ha scuse, sarebbe una delusione umana, scrive Andrea da Casa Ferrari, Maranello, Modena. Sì, ci sono tante cose da considerare nell'impiego e nella disponibilità di Danilo Gallinari, perché non dimentichiamo che poi anche i New York Knicks devono dire ok, vai, e sono quelli che gli versano i soldi, sono quelli che su di lui vogliono costruire un futuro che mai come quest'anno è in ballo, in discussione importante. C'è l'NBA che vuole che partecipi al rookie camp, cosa che per varie ragioni non ha mai fatto. Insomma, non credo sia una scelta che Danilo possa prendere in totale autonomia. Beh, anche perché credo che se potesse prenderla in totale autonomia direbbe sì, senza certo pensarci neanche un secondo, perché ha sempre dichiarato il suo amore per la nazionale, e di certo non più si smentirebbe. Più di tutti quanti, infatti, è sempre stato il primo, per cui sicuramente direbbe di sì. Come hai detto tu, però, ci sono tante variabili, tanti fattori che non dipendono da lui, e quindi ci sono anche fattori economici, mica da ridere, certo, a partire da un'assicurazione per arrivare al suo contrattino, che insomma non è male, visto e considerato che lui con i Knicks finora è riuscito a fare solo una stagione delle due che gli sono state retribuite. È anche normale che i Knicks vogliano dire la loro. Senza dimenticare che al termine dell'anno prossimo, dopo il terzo anno di professionismo, lì scatta il contrattone vero, certo, per le normative statunitensi, e quindi sarà un anno particolarmente importante per Danilo Gallinari e per i Knicks naturalmente. Stefano Milano, poi Antonio Riccione. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo prima, ho saputo che poi passate al tema Scavo Spar, sì, volevo solo ritornare un attimo sul tema della nazionale, tanto di cappello ovviamente alle capacità dimostrate di Pianigiani, però stavo solamente facendo questa riflessione sia per i giocatori sia per il tecnico. Per quanto riguarda i giocatori, intanto che secondo me la nazionale... Oggi abbiamo problemi con i telefoni, disastro. Non sento niente, Stefano, ci sentiamo dopo, proviamo a ripristinare la comunicazione, naturalmente da qui alle 3 abbiamo tempo. Antonio da Riccione, buongiorno. Buonti, mi sente? Spero. Mi sente? Senta, anche io vivo un po' di struggente nostalgia per il basket qui a Rimini, Riccione, dove c'era la Sari, la Sacramora una volta che dominava, sì. Adesso invece vediamo un basket che che è veramente giù. Volevo dire questo, tra, la differenza tra il basket e il calcio attualmente in Italia è che il basket sta perdendo un po' di fascino, perché c'è solo una squadra che vince in Italia, a parte la sconfitta di domenica che non dice nulla, sì, però c'è solo soltanto Siena, è diventata un po' noiosa, non le pare la cosa? Sì, non è, che l'Inter, non è che l'Inter abbia vinto di meno, negli ultimi anni mi pare che viaggiano in parallelo, Sì. E poi le avevo mandato un messaggio perché era una domanda più per Garanzini che per lei, chiedendole questo, dottor Genta. A Barcellona mi è sembrato un popolo di antisportivi, quella apertura degli idranti a fine partita per evitare che i giocatori dell'Inter esultassero, giustamente, che lei come la interpreta? Cosa ne pensa? Senta Antonio, domani glielo dico, domani dalle 5 alle 6 abbiamo tutto il tempo per parlare di calcio, per parlare dell'Inter, per parlare degli idranti, per parlare del Barcellona. Glielo dico domani, adesso il basket, cosa me ne sembra? Insomma, non è stata una serata di grande eleganza da parte blaugrana, non è stata una serata di grande eleganza, non sono bravi a perdere, come ha detto qualcuno, sono bravissimi a vincere, però insomma, tra l'essere belli e avere la faccia pulita quando le cose vanno bene e lo scadere in appunto serate poco eleganti come questa, insomma il confine è stato superato, mi pare. Comunque domani ne parliamo, state tranquilli. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Paolo Ellisse. Io con grande piacere, per rispondere a Diego, a tutti gli ascoltatori, a tutti gli sportivi italiani, do le ultime notizie su Dusan Sakota, che sta meglio. L'ultimo bollettino di oggi scrive il direttore sanitario della clinica che la sua permanenza in rianimazione ci consente di monitorare costantemente la lesione duodenale, ma è sempre più vigile e lucido. C'è anche un lieve miglioramento dei parametri epatici. Certo, per la scavo spara è stata una settimana pazzesca. Come vi ho annunciato prima, vogliamo parlare di questa Final Four di Euro Challenge e pertanto io saluto e ringrazio Stefano Valenti, che per Superbasket anche per noi è lì a Göttingen. Ciao Stefano. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Soprattutto un altro Stefano, che è il presidente della scavo spara, Stefano Vellucci. Buon pomeriggio presidente, buon pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Presidente, l'Eurolega, come la Champions League nel calcio, ha un po' svuotato di importanza e significato le altre coppe, ma la fatica europea merita sempre rispetto, io credo. Mi sembra giusto, chiaramente per noi ha un valore ancora più importante, visto che 5 anni fa siamo ripartiti dall'attuale A dilettanti e questo è un passaggio per tornare nell'Europa, quindi diamo grande rispetto a questa manifestazione, ci rendiamo conto che è la terza Coppa in Europa, però essere arrivati a questo atto conclusivo per noi è motivo d'orgoglio e cercheremo di ben figurare. Ecco, malgrado questa settimana, come avete detto giustamente voi, sia stata una settimana molto ma molto particolare. E adesso come state, come vi sentite? Mi è sembrato giusto un paio di giorni fa, prima di partire per Göttingen, lasciare la facoltà della partecipazione alla squadra e Michael Hicks, il nostro capitano, e lo staff hanno fatto una riunione e la squadra con molta coscienza ha deciso di partecipare, quindi credo che questo sia un grande segnale e voglio ringraziare tutta la squadra e lo staff. Cercheremo di onorare al meglio e di ben figurare anche per onorare appunto Sakota, che farà per il tifo per noi. Fortunatamente sta meglio e quindi questa settimana abbiamo pregato tutti per lui. Presidente, in linea di massima è stata anche una stagione abbastanza particolare, non soltanto sul piano europeo ma anche sul piano nazionale, nel senso che avete avuto una partenza shock e adesso sembra che vi state un po' togliendo dalle zone pericolose della classifica. Beh, ancora la stagione non è finita e non siamo salvi. Diciamo che le ultime giornate ci hanno visto fare un passo in avanti, abbiamo giocato anche delle buone partite. Condizionante per la nostra stagione sono stati gli infortuni che abbiamo avuto a catena e soprattutto la partenza con le prime 8 sconfitte, le prime 4 senza il nostro centro Eric Williams, e questo ha comunque influenzato la nostra stagione. Poi sinceramente abbiamo avuto proprio in maniera quasi matematica i giocatori che entravano in forma uscivano poi per infortuni, perché in sequenza abbiamo avuto Van Rossum, abbiamo avuto Svetkovic, abbiamo avuto Cinciarini e adesso Sakota. Quindi sicuramente non è stata un'annata fortunata. Paola, ti ricordi anche la grande Milano Anche sì. Questa Siena sia nata negli aeroporti ai confini dell'impero, no? da coppe di questo tipo prima di arrivare a quella più importante. Beh, ciao Stefano, innanzitutto sono Paola Ellisse. Ciao Paola. Sì, ciao beh, Paola. In effetti comunque è sempre Europa, comunque è sempre una coppa, comunque è sempre qualcosa a cui partecipi e che ti insegna a vincere, anche a perdere se è il caso, perché io ho avuto la fortuna di vivere tanti momenti vincenti della squadra in cui giocava mio marito, ma prima di quelli ho anche vissuto tantissime sconfitte, di quelle in cui vai a casa e la notte lui passeggia per il salotto perché non riesce a dormire. Per cui è tutta scuola a tutti i livelli, per la società, per i giocatori, per il pubblico, un pubblico che dovrebbe tornare ad amare la sua squadra, perché mi sembra che negli ultimi tempi l'abbia un po' abbandonata e non se lo merita. Stefano Valenti, che Final Four sarà? Che Scavolini ti aspetti? Ma mi aspetto una Scavolini determinata, una Scavolini cattiva, una Scavolini che è conscia del fatto che può vincere questa Coppa. Sono pienamente in linea con quello che avete detto voi, anche perché poi alla fine noi facciamo sempre le categorie, distinzioni, quella vale, quell'altra vale meno. Noi non ci mettiamo mai nei panni dei giocatori che poi alla palla a due giocano per vincere. Come ha detto giustamente ieri Luca Dal Monte, non sono poi tanti gli allenatori o i giocatori che in carriera arrivano a giocare una Final Four di una Coppa certo. europea, e non si guarda al nome o al valore o al ranking. Io resto sempre un po' colpito dal fatto come nelle storie dei giocatori, nelle schede scritte in inglese, c'è sempre tutto quello che viene fatto e le vittorie. Sembra quasi che se poi uno si trova scritto che ha vinto l'Euro Challenge, se lo leggi un italiano sembra una diminuzio, se lo leggi scritto in inglese sembra un trofeo messo in bacheca, ed è questa la verità. Michael Hicks, capitano di Pesaro, ha 34 anni, non ha mai partecipato a una Coppa Europea, ma è due vittorie dall'alzarne una. Eric Williams ha conquistato un'Eurolega con Avellino, l'anno dopo ha giocato l'Eurolega con Avellino, ma l'ha fatta da comprimario per una squadra che non aveva ambizioni. Lo stesso Marcus Green, l'anno in cui doveva giocare l'Eurolega, poi è andato via da Avellino. Quindi, come dire, qui si gioca per vincere, e questo è il più grande stimolo che ci possa essere. È vero, la settimana prossima non saremo protagonisti a Parigi, l'Eurocup non ci ha visto fortunati, qui siamo al seguito di una squadra italiana che lotta per vincere una Coppa Europea, e no, questo è intangibile. Ma poi Stefano, curioso anche il fatto che questa Scavo Sparsa è stata accompagnata alle Final Four nel silenzio del suo pubblico. Oggi abbiamo parlato tanto di nostalgia, no? Darren Day e Warren Cook sono nomi che continuano a rimbalzare insieme a quelli degli altri grandi del nostro campionato. Ma è passato qualche tempo da quei due scudetti, è passato qualche tempo da quella Coppa delle Coppe ai tempi di Kicianovic, no, tanto per fare un altro nome. Ma insomma, sai, non c'è più John Barry Carroll a Milano, non c'è più Danilovic alla Virtus, non ci sono più Cook e Day a Pesaro, ma i giocatori di Pesaro di oggi, anche se non si chiamano Cook e Day, sono arrivati a una Final Four europea. Cioè, il livello di competizione è questo, ma questo livello di competizione ad oggi ha eletto Pesaro tra le prime quattro squadre di questo torneo, che forse all'inizio è un po' bistrattato perché magari semplicemente non se ne conoscono tanto le avversarie, i protagonisti, ma poi alla fine diventa molto interessante a livello di Final Four. Questa è una coppa che negli anni scorsi è stata vinta dalla Juventud Badalona, è stata vinta da Girona nel 2007, che era una squadra con un roster d'Eurolega, è stata vinta da David Blatt, da Ito Garcia Reneses, da Svetislav Pesic, che ha visto Rudy Fernandez MVP dell'edizione del 2006. Quindi insomma, qualcuno di importante è passato da questa coppa. Pesaro ha l'obiettivo di vincere, perché quando si è qua si viene per vincere, per mettere il proprio nome su questo albo d'oro, che è un albo d'oro, perché ripeto, per certi versi parlo contro il nostro lavoro, ma mettiamoci nei panni di chi stasera va veramente alla palla 2 e si trova davanti Samara, e non conta l'etichetta, conta quello che succede sul campo da gioco, e si gioca, ripeto, a due vittorie da una Coppa Europea. Presidente, per chiudere, che cosa vuol dire ai pesaresi invece? Alla sua gente cosa vuol dire? È che questa è un'occasione per noi per iscrivere veramente nuovamente il nostro nome nell'albo d'oro di una competizione. L'unico trofeo vinto da Pesaro risale a oramai a 27 anni fa, e giustamente, come ha detto Valenti, siamo qui per giocare e per vincere, perché quando si arriva in fondo quello rimane l'obiettivo. E mettiamo da parte il rammarico che c'è stato indubbiamente durante la stagione anche per l'accoglienza riservata a questa Coppa, adesso siamo arrivati in fondo e puntiamo a vincerla, poi i bilanci li faremo alla fine. E parleremo, Presidente, parlerete anche di futuro, immagino, di questa società, di questa squadra. Indubbiamente, però questo weekend è proprio dedicato a questo appuntamento, del quale io personalmente sono molto orgoglioso, sono fiero, perché quando comunque iscrivi il tuo nome o hai la possibilità di iscriverlo in un albo d'oro di una competizione è una cosa che rimane sempre scritta. Non dimentichiamoci che noi solo 4 anni fa eravamo nell'attuale A dilettanti e il primo trofeo che abbiamo vinto è stato la Coppa Italia dilettanti, ma quella rimane ancora appesa ed è scritta nel nostro albo, quindi andiamo fieri anche della nostra risalita. E giustamente questi aspetti dovrebbero essere forse compresi di più dal pubblico, che dovrebbe guardare con meno nostalgia al passato, ma più conscio dei progressi che abbiamo fatto negli ultimi anni, e non sono stati pochi. Io capisco, Presidente, ma c'è una trattativa in corso, come si legge oggi sui giornali? Questi discorsi li mandiamo alla prossima settimana. Allora ci sentiamo la prossima settimana. Okay. Volentieri, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie davvero. Grazie a Stefano Vellucci, presidente della Scavo Spar. Stefano Valenti, con te ci sentiamo nel weekend per raccontare queste Final Four. Volentieri. Com'è Samara? Tutti con Pesaro. Ma naturale. Samara è una squadra interessante, una squadra che Pesaro ha già affrontato nella prima fase, una vittoria e una sconfitta. È una squadra che ha cambiato 3 allenatori, che ha 2 giocatori ben conosciuti da noi, che sono il playmaker Bremer, che abbiamo visto a Biella, e Luis Flores, che è la guardia dominicana, che abbiamo visto a Reggio Emilia e a Fabriano. Sono i 2 fulcri del gioco, che poi sui lunghi si basa su Duit, che è una stata scelta dei Lakers, che però i Lakers li ha visti più o meno come noi, diciamo, qualche volta dal vivo, più spesso in televisione. E poi un gruppo di giocatori russi, un ala lituana discreto rimbalzista, insomma squadra solida massiccia. Ieri Luca Dal Monte, quasi in tematica un po' calcistica, ci ha dato la formazione spiegandoci che l'assenza di Sakota sarà, diciamo, compensata con la partenza, in cui detto, di Svetkovic e Michael X può giocare sia fronte che spalla canestro, e quindi si vedranno un po' gli accoppiamenti per capire, cercare tatticamente di ribaltare quella che comunque è un'assenza anche sul piano tattico ovviamente pesante per Pesaro che saprà l'occasione, proverà a alzare un po' il ritmo per evitare la fisicità superiore della squadra russa, e poi si vedrà. Comunque va anche ricordato che anche semplicemente vincendo la semifinale, chi gioca la finale di questa competizione si guadagna un posto per la Eurocup dell'anno prossimo, e visto che avete affrontato il tema del possibile passaggio di consegne, insomma sul tavolo della trattativa Pesaro può mettere un diritto europeo, un diritto europeo in più, naturale. Grazie Stefano, a presto, anzi a domani. Grazie a voi, alla prossima. Palla spicchi. Ecco che torniamo sempre con noi, Paolo Ellis. Paola, tra oggi è Eurocelest, tra una settimana tutti a Parigi c'è l'Eurolega. La Grecia sta sprofondando economicamente, lo sappiamo. Aspetta lì, salva gente, sì, l'Unione Europea. Purtroppo non soltanto il basket, qui rischia di portarsi dietro mezza Europa. Eppure pensi che lì c'è ancora, sono lì ad aspettare salva gente della UE, del Fondo Monetario Internazionale. Intanto c'è gente che spende. Ci sono i tedeschi che fanno i cattivi e non hanno voglia. Non hanno voglia, Angela Merkel. Però c'è ancora chi spende 30 milioni, anche di più, 30 milioni di euro per un paio di giocatori come Kleiza e Childress. È l'Olympiacos, mia personale favorita a Parigi. Favorita per la vittoria, yes, assoluta, più del Barcellona, quindi mi dici tu? Yes. Ah, io invece sto col Barcellona, ti dico questa. Volevo farlo originale, poi non ci ho mai preso un pronostico. No, però è vero che in effetti l'Olympiacos va un po' controtendenza rispetto a come stanno andando le cose in Grecia. Potrebbe essere il suo anno, visto e considerato che nelle ultime stagioni non è che abbia speso pochissimo, però non è mai riuscito ad avere quel centesimo per fare un euro. Poi adesso riescono anche a sberleffare un po' i cugini del Panathinaikos, quindi per loro sarebbe veramente un grande trionfo, immagino. Ma credo, io ti ripeto, sto col Barcellona. Sì, no, ma è anche la soluzione più ragionevole. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Flavio, vorrei anche un tuo pensiero ad accompagnare la Scavo Spara in questa Coppa che si gioca stasera. Non è che viviamo Final Four tutti i giorni da queste parti da un po'. No, no, assolutamente. E se pensiamo che lo scorso anno alla vittoria della Virtus, forse l'abbiamo tutti sottovalutata, ma non era così da sottovalutare, anche senza quel meta significato che ha questa volta l'avventura della Scavolini, o Scavo Spar che sia, è da seguire con attenzione. Flavio, il nome del killer è Manu Ginobili. Non è una novità. No, però ce lo chiedevamo domenica, ti ricordi? Kaiser Sose, che era più imprevedibile come sospetto. Sì, sì. Io credo che comunque adesso, dicevo prima che a Costan Peterson l'incubo di chi vuole arrivare in finale, di chi è designato per questa finale, Lakers e Cleveland, siano due squadre di vecchiacci, come Boston da una parte e come appunto San Antonio dall'altra. Io credo che se si giocasse adesso Lakers-Spurs e adesso Cleveland-Boston, che peraltro si gioca, sarebbe una cosa. Ma Lakers-Spurs, se si giocherà, perché di mezzo comunque c'è parecchio tempo e parecchia roba, si giocherà più avanti. E questo rileva. Mentre Boston-Cleveland si gioca adesso, quindi Boston, che ha anche risparmiato delle energie finendo contro Miami in 5 partite... renderà, io credo, la vita molto molto dura a Cleveland, però penso sempre che passi Cleveland. San Antonio Lakers, non possiamo riparlarne prima intanto di sapere se ci sarà e secondo vedere come ci arrivano gli Spurs, perché sono obiettivamente un po' più corti, un po' più avanti negli anni dei Lakers. Flavio, scusa, volevo chiederti questo: alla luce del fatto che i Lakers stanno facendo così fatica in questo primo turno di playoff, secondo te ambizioni minimamente ridimensionate o solo incidenti di percorso? Ma io penso che tipicamente le squadre di Phil Jackson diano il meglio quando sono in difficoltà. Non vuol dire sì, assolutamente, che abbiano perso apposta o che debbano essere felici di aver perso quelle due partite contro Oklahoma City, di aver giocato in maniera così poco convincente le prime due. Penso che ci sia qualcosa di fisico da parte di Kobe Bryant, e poi c'è una situazione molto particolare che è relativa alla scadenza di contratto di Phil Jackson, e queste sono partite a poker con delle puglie molto molto alte, e quindi c'è pressione nel giocare una partita a poker mentre nel frattempo devi anche giocare contro dei Kevin Durant e compagni. Però al momento, per quello che abbiamo visto, non c'è ancora modo di dire i Lakers sono detronizzabili. Forse ci sarà modo di dirlo nel corso di questi playoff, al momento non ancora. Ragazzi, parliamo un attimo anche del nostro campionato, che voi raccontate tutti i giorni da Sky. Ultimo turno mica male, no? Con Ferrara che batte Montegranaro, Cremona che vince sul campo della Virtus Bologna, e poi Siena che perde in casa. Insomma, una delle più belle, Paola, una delle più belle abitudini ancora in vigore nel nostro basket è quella che nel dopo partita, in molti campi, soprattutto in provincia, vanno in campo i bambini con i loro palloni da mini basket, no? Qualche bambino di quelli che c'erano in campo a Siena non era ancora nato quando Siena aveva perso l'ultima volta in casa, perché proprio tranquillo ha fatto i conti, domenica ha snocciolato giorno per giorno, mancava contasse le ore e i minuti, però è così. È vero, è assolutamente vero, tu pensa a quelli che c'erano, a che cosa hanno assistito, quindi effettivamente, no, hai ragione, io ti devo dire, era anche ora, ma non perché Siena ha perso, che tanto non cambia assolutamente niente, né per Siena né per nessuno, né per il campionato, per Benetton parliamo, per Treviso può cambiare, perché può voler dire qualificazione ai playoff in effetti, e poi comunque hai sempre battuto Siena, in qualche modo hai scritto una piccola pagina di storia del nostro campionato, perché siamo arrivati a questo, no? Sì, batti Siena, comunque hai diritto al titolo in cronaca. Però ti dicevo, era ora, penso anche per Siena, almeno si sono tolti sto pensiero, perché non ne potevamo più di stare a fare i conti, come giustamente dici, faceva Flavio, pensare le ore, i minuti, i secondi, i giorni, i mesi, gli anni. Oh, hanno perso, si riparte da zero. Si è tolta la scimmia dalla spalla quasi, Flavio. Ma io penso che sia una vittoria che serve, una sconfitta che serve a Siena quanto serve la vittoria alla Benetton, e serve molto proprio in chiave playoff, nel senso che non vorrei mai arrivare nelle condizioni di Siena di adesso ai playoff con il dovere a tutti i costi di allungare da 1062 a 1300 i giorni di impartibilità. Anche qui questo non significa che abbiano perso apposta, però a posteriori, analizzandola, una sconfitta decisamente potrebbe anche aiutarli, paradossalmente. Certo, una sconfitta a 99, concedendo quasi 70% dal campo agli avversari, che hanno fatto 99 con 27 palle perse, ecco, questa, anche se non ho ancora visto la partita intera, non mi lascia tanto convinto. Senti, un giorno su Sky, io sono convinto, arriverete come per il calcio a trasmettere tutte le partite del campionato, no? Su 251 in poi. Se fosse già così, indovina che partita sceglierei domenica. Benetton-Carife, senza dubbio. Interessante, molto interessante. Sei d'accordo, Paola? Beh, sono d'accordo con Flavio, molto interessante. A parte che faccio fatica in queste ultime giornate a trovarne una che non sia molto interessante, perché a sud di Siena effettivamente è tutto interessante quello che sta succedendo. Flavio, per chiudere, mi sarebbe piaciuto vedere Brandon Jennings protagonista del nostro campionato sul serio e non solo come figurina, eh? Il discorso è interessante, però... secondo me Brandon Jennings ha giocato meglio certe partite con la lottomatica di altre partite, per esempio di questa serie contro gli Hawks, compresa l'ultima in cui ha segnato mi sembra 24. A me non è piaciuto particolarissimamente, mi è piaciuto di più in altre partite con la lottomatica in cui è stato in campo 7 minuti e ha fatto meno 3 di valutazione. È una mini provocazione, ma fino a un certo punto, nel senso che i Bucks lo sfruttano per quello che fa, vedono la parte, sarà mezza, tre quarti, un quarto del bicchiere che è piena e ignorano l'altra. A Roma era esattamente il contrario, ed è facile spiegare perché poi il rendimento di un giocatore venga percepito in maniera così distante da un anno all'altro. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. A voi, saluti. Grazie Flavio, tranquillo. Tu Paolo, domenica hai degli impegni invece? Io domenica sì, ho un impegno, ho uno studio. No, un impegno te? Domani perché faccio il derby, certo, a Cantù, quindi faccio Cantù Varese domani, che anche quella lì bella tosta a proposito di partite che contano, perché Varese, visti i risultati di domenica, tranquillissima non è. Beh, sai, appena hai perso al supplementare con un tiro da metà campo di Bowers, ti giri e scopri che Ferrara e Cremona hanno vinto, ti scatta un attimo il panico, perché la settimana prima vincendo a Roma pensavi di poter chiudere in tranquillità, quindi anche quella è bella. E poi domenica avrò Andrea Trinchieri in studio alle 18 e lo porto direttamente dal derby. Buon lavoro, sì. Paola, grazie anche a voi, grazie a prestissimo voi. Grazie anche a Franco Piantanida in redazione, a Carmelo Riccioli in regia, oltre a Flavio Suardi. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6 per parlare di sport.